degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questi sono gli atti e misfatti e abbiamo preparato per voi un estratto di un audio di Angela Davis. L'abbiamo preso un po' per caricarci, per l'Occupy Everywhere, ma soprattutto per sentire la sua voce, per sentire quello che dice, per sentire un po'... È un po' un discorso di quelli fomentatori, ma con un'analisi di fondo alla Angela Davis. E si trovava a Filadelfia, infatti è il discorso di Angela Davis, Occupy Filadelfia, che potete trovare anche su YouTube insieme a altri discorsi che ha fatto a Wall Street e a Oakland. E vi facciamo sentire la voce di Angela Davis, che già questo dà un non so che di emozione, e poi una traduzione. To be here among you at Occupy Philly tonight. And I want to thank you for your commitment. I want to thank you for your dedication. I want to thank you for your dedication. I want to thank you for your creativity. I want to thank you for your creativity. I want to thank you for helping to reinvent our political universe. Ed è bellissimo ascoltarlo con tutte le voci sotto. Occupy Wall Street, Occupy Oakland. Prima di tutto è veramente un onore essere qui tra voi a Occupy Philadelphia questa sera. E voglio ringraziarvi per il vostro impegno. Voglio ringraziarvi per la vostra responsabilità. Voglio ringraziarvi per la vostra creatività. Voglio ringraziarvi per aiutarci a reinventare il nostro universo politico. We talked about the importance of building a movement that is inclusive. Recognizing that the unity of the 99% must be a complex unity. Abbiamo parlato dell'importanza di costruire un movimento che sia inclusivo, che riconosca che l'unità del 99% debba essere una unità complessa. Movements in the past have primarily appealed to specific communities. Whether workers, students, black communities, Latino communities. I movimenti del passato sono principalmente comparsi in comunità specifiche, tra i lavoratori, gli studenti, la comunità nera latina. LGBT communities, indigenous people. All these movements have been organized around specific issues. Le donne, la comunità LGBT, le comunità indigene, tutti questi movimenti si sono organizzati a partire da temi specifici. Like the environment. Food. Water. War. The prison industrial complex. Come l'ambiente, il cibo, l'acqua, la guerra, il sistema penitenziario industriale. The prison industrial complex. This is the movement I have been personally associated with. This is the movement I have been personally associated with. We have tried to call attention. We have tried to call attention to the inalterable damage. To the inalterable damage. And the criminal justice system. And the criminal justice system have inflicted on our communities. Have inflicted on our communities. Parlando del sistema penitenziario industriale, questo è il movimento in cui mi sono impegnata personalmente. Abbiamo provato a richiamare l'attenzione sui danni incalcolabili del sistema di giustizia penale ha inflitto alle nostre comunità. Abbiamo lottato per la riduzione della popolazione carceraria, la decarcerizzazione. The reduction of the prison population. The reduction of the prison population. Decarceration. But we have also called for the revitalization of all our communities. Creativity. Equality. Equality. Freedom. Freedom. Abbiamo lottato per l'educazione, la salute, la casa, il lavoro, la speranza, la giustizia, la creatività, l'uguaglianza, la libertà. I evoke once more Audre Lorde. Evoco ancora una volta Audre Lorde. Le differenze non devono essere solamente tollerate, ma viste come polarità, tra le quali la nostra creatività possa sprigionare scintille come la dialettica. Occupiamo tutto, occupiamo tutto. This song is to my mother, my dear mother, how I think about you every day, every night, every hour. You are in my soul forever.